Di Giovanni Minoli. Nel Mediterraneo si continua a lavorare, mentre in furia la polemica aperta dal procuratore di Catania sul ruolo di alcune ONG nell'aumento dei flussi della migrazione. Ma tenere alta la tensione soprattutto Angelina Alfano, ministro degli esteri, che sostiene il procuratore di Catania in sintonia con i 5 Stelle e il centrodestra. Bacchetta, ma che razza di paese è quello in cui il ministro della giustizia e dell'interno minimizzano, mettono in dubbio questo allarme? C'è un procuratore che lancia un allarme ed è vergognoso che il ministro della giustizia Orlando, invece di dargli supporto, lo attacchi. Stanno lucrando su questi disperati. E ormai è chiaro ed evidente che al posto della droga si spacciano uomini. Il procuratore di Siracusa, Francesco Paolo Giordano, di fatto ha smentito Zuccaro. Collegamenti tra organizzazioni non governative e scafisti? A noi non risulta. Giacomo Stucchi, che è il presidente del Copasir, di fatto smentisce dossier dei nostri 007 proprio sulla vicenda. Buongiorno, bentornati a Mix 24. Sulle ONG e sul loro presunto rapporto con gli scafisti, avete sentito, si è scatenato un vero putiferio. Ieri nell'audizione al Copasir il senatore della Lega e presidente del Copasir Giacomo Stucchi ha smentito le dichiarazioni del procuratore di Catania Zuccaro, dicendo non esiste alcun dossier degli 007 italiani su questi presunti contatti. L'avevamo cercato per avere una conferma stamattina, ma purtroppo ci ha ringraziato per l'invito, ci ha detto chiedo scusa ma preferisco non dire altro su questa vicenda. A questo punto quindi il caos è completo. Con il procuratore capo della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, cominciamo a parlare di questa vicenda, però partendo dall'inizio. Ecco, dottor Gratteri, lei dice che bisogna costruire infrastrutture in Africa per cominciare a fermare il traffico di migranti. Cosa intende per infrastrutture? Con meno di un terzo della spesa questo controllo o di questo recupero dei migranti nel Mediterraneo, imprese italiane ad esempio, imprese tedesche a seconda di chi mette i soldi, sì, vanno in questi stati del centro Africa e costruiscono aziende agricole, serre, costruiscono ospedali, strade, con un terzo della spesa rispetto a quello che si spende, che oggi, si spende oggi per portare questi disperati in Europa. Ecco, dottor Gratteri, ma il rischio di una collusione tra qualche ONG e gli scafisti secondo lei c'è? Guardi, questo non lo so, perché io in genere sono abituato a parlare delle cose che so, se ho delle prove in tasca. Sì. Io la cosa che posso dire a proposito di queste polemiche è questo: io conosco il procuratore Zuccaro, è una delle persone più serie che ci sono in magistratura, è una persona serissima, per bene, oserei dire un gentiluomo, è un termine che uso 2-3 volte in un anno. E quindi lei pensa che ha fatto bene? Se lui ha detto questo, dice però non le posso utilizzare, quindi lui ha o delle informazioni certe dei servizi, tipo intercettazioni, sempre delle intercettazioni preventive, naturale, che vengono utilizzate ad esempio per la cattura dei latitanti, però poi non possono, sul piano probatorio, sul piano processuale, non sono spese. Non possono essere spese, certo. Quindi dice so, ma non lo posso dimostrare. Non lo posso dimostrare sul piano probatorio. Io immagino questo. Certo. Altrimenti andare ad inventarsi di sana pianta una cosa del genere non è da procuratore Zuccaro. Ecco, senta, ma non perché, è l'uomo che conosco io. Ma perché il CSM si è mosso così velocemente, invece ha aperto un caso sulle sue dichiarazioni, secondo lei? Questo non lo so, perché spesso dipende molto, vedo che per certe cose si insiste molto sulle prime pagine di giornale, per altre cose si insiste di meno. spesso... È un fatto mediatico, secondo lei? Ma certe volte, cioè, non sono il caso di specie, perché ripeto, io non ho... No, certo, l'ha detto chiaro, sì. Parlo in base a quella che è la mia esperienza di 30 anni di magistrato. Certo. Ma c'è un conformismo culturale che non vuole chiamare le cose col loro nome? Non vuole vedere i fatti? Spesso si tende a non permettere di dire il re è nudo. Ecco, senta, il re nudo invece Angelino Alfano, ministro degli esteri, in qualche modo l'ha detto, ha detto che non bisogna essere ipocriti. Ha fatto bene Alfano? Non lo so, perché Alfano è stato ministro degli interni, quindi sicuramente lui avrà più dati, più notizie di me. Dice che poteva parlarne prima, come dice Orlando. Ad esempio. Senta, siamo tutti d'accordo che il lavoro delle ONG è preziosissimo, ma le ONG vivono di donazione, di contributi pubblici e privati. È chiaro che più soccorsi fanno e più risultano indispensabili. Quindi il rischio di voler gonfiare i numeri c'è, no? È possibile? Ma non lo so, in base a quello che è stato detto in questi giorni, pare che alcune meno famose o poco famose possono essere interessate a questo. Senta, qualche mese fa in Calabria è stato arrestato un siriano appartenente al gruppo terroristico Jabhat al-Nusra. Sì, che ha fatto il mio ufficio, sì. Infatti, faceva lo scafista. Lei ha dato particolare importanza a questo episodio. Perché è così importante? Perché lui aveva nel cellulare, soprattutto mentre era in carcere, cercava di mettersi in contatto con gente che faceva parte dell'ISIS, con dei terroristi, per dire io appena ne esco dobbiamo filmare, dobbiamo documentare ora non ricordo il termine esatto, ma il senso era dobbiamo documentare delle stragi, dobbiamo degli eventi eclatanti. Lui nel suo cellulare che noi abbiamo sequestrato c'erano carri armati, c'erano arsenali di armi, c'era tutta la simbologia. Ma quindi tutta la retorica per cui tra i migranti non possono esserci elementi pericolosi è una retorica da evitare. Questo non è vero, perché nessuno può dire, può escludere, cioè su una barca, su un flusso di migliaia e migliaia di migranti, come fai ad escludere là dentro chi c'è? Ma lei pensa che l'Andrangheta in Calabria sia interessato al traffico di migranti o ha interesse a usare la manovalanza criminale che viene dall'Africa? Ma guardi, l'Andrangheta ha utilizzato come garzoni degli emigranti, cioè soprattutto facendo lavorare nelle loro aziende a 20 euro, a 30 euro, questo sì. Ma parlare che l'Andrangheta o le mafie in genere hanno interesse ad avere contatti o a fare affari con l'ISIS è una sciocchezza, perché l'Andrangheta e le mafie ne traggono vantaggio della presenza e dell'esistenza del terrorismo in questo momento in Europa, perché tutte le polizie e le magistrature spaventate, terrorizzate, si concentrano sul terrorismo, trascurando le indagini contro le mafie. Quindi le mafie vanno a gonfie vere in questo periodo. Quindi, procuratore Gratteri, ma le forze di sicurezza sono adeguate rispetto ai rischi che lei sta segnalando da tempo? Guardi, in Europa no. Finora in Italia ci è andata bene, anche perché abbiamo una polizia giudiziaria di qualità, abbiamo un coordinamento dei servizi che rispetto ad altri stati funziona meglio e finora ci è andata bene. C'è una cultura del controllo del territorio ormai che si tramanda nei secoli in Italia, mentre in Europa non c'era assolutamente la cultura del territorio, e quindi ciò che è successo ad esempio a Bruxelles o in Francia a me non ha meravigliato. Non l'ha meravigliato. Procuratore Gratteri, gli scafisti lavorano per strutture organizzate sul territorio. Come si contrastano se la Libia è nel caos totale? Con chi si parla in Libia? Ma le mafie sanno parlare nel caos, soprattutto quando c'è caos, cioè in un sistema che funziona, un sistema democratico, maggiore democrazia, meno caos c'è, più ordine c'è, meno affari possono fare le mafie, e questa regola vale ancora di più nei paesi dove c'è la guerra. Ecco, ma è la democrazia, e con chi possono parlare per in qualche modo organizzare dei piani di limitazione delle invasioni, diciamo? Ma è un compito arduo parlare in Libia, perché ci sono tante Libie in questo momento. Appunto. Cioè, io parlo con te, però poi c'è il vicino col quale non parlo, e quindi i flussi migratori si spostano 50 km più a nord o più a sud. Senta, è una grande ipocrisia collettiva questa dell'accoglienza senza un piano nazionale per l'immigrazione sostenibile? Io ritengo che bisogna andare sempre alla fonte, alla radice del problema. È come quando altre volte abbiamo parlato del processo penale, della prescrizione. Io non mi devo interessare alla prescrizione, io devo interessarmi per quale motivo da 5 anni c'è un armadio pieno di carte e nessuno interviene. Esatto. Stessa cosa, il problema, io non mi devo preoccupare di quante migliaia arrivano ogni giorno in Italia. Ma del perché? Io mi devo preoccupare del perché e andare nel Centrafrica e risolvere il problema in Centrafrica. Senta, un'ultima cosa e la ringrazio. Rischiamo di ritrovarci nel giro di qualche anno in una situazione peggiore della Francia? Questo non penso in Italia, perché, ripeto, i vertici delle forze dell'ordine sono di altissimo livello e sono attenti. Io insegno gratuitamente anche devo mettere su gratuitamente, perché se non dico su Gratteri quante cose fa, quanto guadagno. Il target, il livello è altissimo rispetto ad altre polizie europee o americane, perché io facendo indagini sul traffico internazionale sui facendo, mi trovo spesso attorno a un tavolo 8-10 polizie del mondo. E gli italiani sono a livello altissimo. Sì, l'Italia è altissimo. 800-24-00-24, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Insomma, Mario, mi sembra che comunque l'analisi di Gratteri è molto interessante, ma siamo nel caos, Stucchi contro Zucchero, ma anche contro il segretario del suo partito Salvini. Insomma, una guerra di procure di nuovo. Però io mi fido molto di Gratteri. La sua analisi è stata, anch'io lo conosco bene, è stata precisa, e lui non ha dubbi su quello che dice Zucchero. Fatta salva ovviamente la bontà istituzionale e personale di Stucchi, ci mancherebbe. Però non è che Stucchi conosce tutti gli elementi, appunto, di indagine che sono presenti, può darsi che Zucchero ne abbia degli altri, e che comunque gli stessi servizi segreti ne abbiano degli altri che non sono. Vabbè, comunque è una questione molto controversa, se sta diventando un bel casino, diciamo. Sì, la parola tecnicamente giusta è quella, è caos, casino. Ma posso aggiungere un'altra cosa, Giovanni? È interessante tutto il discorso che ha fatto Gratteri sul fatto che il re è nudo, cioè sul fatto che le cose si chiamano con il loro nome. Bisogna cominciare a chiamarla con senza il politicamente corretto. A proposito di questo, è curioso anche come ha cambiato posizione la Chiesa. Prima, dal primo giorno, ha attaccato, e adesso invece si è messa completamente sulla difensiva. Anche lì si vede che le informazioni sono cambiate. La Chiesa dovrebbe conoscere bene, non dico meglio di tutti, ma certamente bene questo tema. Certo, no? Perché è lì, è sul terreno. Insomma, questo problema del conformismo culturale, no? Di cui si è parlato con Gratteri, ci porta a dire che non ci sono ricette di destra, di sinistra, bisogna partire dal reale. E partendo dal reale, partendo anche da quello che ha detto Gratteri, bisogna andare alla radice del problema. È un fatto che lo spaccio degli uomini, questa è una immagine che ha usato Salvini, ormai sia molto più lucroso del narcotraffico. Certo. Ed è il vero affare su cui si misurano le criminalità organizzate. Ed è anche vero che molto spesso i paraventi umanitari sono utilizzati proprio perché si fa leva su un sentimento ineludibile da parte di tutti. Certo. Comunque adesso questa notizia dell'incontro in Libia fra Haftar e il presidente in carica, non lo so, poi è una buona notizia, potrebbe cominciare a ridurre gli interlocutori in Libia, no? Dire che c'è anche un elemento in più. Tu hai citato un fatto preciso della geopolitica, è anche vero che adesso si sono incontrati gli interessi osceni della geopolitica di chi ha interesse di determinare la catastrofe nel continente europeo e quelli della criminalità, perché ricordiamolo che le bombe migratorie sono state fondamentali per determinare la catastrofe in Europa. Ecco, centro di questa questione, per quello che ci riguarda, c'è sicuramente Lampedusa. Giusy Nicolini è sindaco di Lampedusa, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei ha criticato molto duramente l'onorevole Di Maio, ha seguito un pochino quello che abbiamo detto, sì, dicendo che le sue parole sulle ONG sono delle parole ignobili. Perché? Tutta la posizione che hanno assunto i 5 Stelle, mi sembra così, perché chiaramente e vilmente strumentale, soffiano sulle paure delle persone, hanno generalizzato, improvvisamente il tema è diventato far scomparire le ONG dal Mediterraneo piuttosto che combattere la tratta di esseri umani. Beh, però non è proprio così, diciamo che hanno fatto delle osservazioni che sono riprese anche da questo scontro che c'è fra procure, diciamo, quindi l'interpretazione non è che tutte le ONG, si parla di provare a distinguere, no? Un po' di confusione c'è, mi sembra. Sì, ma infatti è quello che bisogna fare, ma se lei torna indietro, in questi giorni c'è stata un capovolgimento proprio dei valori e delle priorità. Allora mettiamola in un altro modo. A chi salva le vite in mare. Sì, certo, ma mettiamola in un altro modo. Lei che è lì, sul bordo della frontiera, sì, metterebbe davvero la mano sul fuoco nell'escludere episodi di collusione tra qualche ONG e trafficanti di uomini? Assolutamente no, ma fin dal primo momento non l'ho fatto, perché insomma, se lei pensa che ci sono state mamme che si chiamavano Aldobrandi o Stucchi che dormivano a casa contando sulle forze dell'ordine per la tutela dei propri figli e invece se li sono ritrovati ammazzati da uomini infedeli allo Stato, perché dovrei meravigliarmi, certo, se una ONG non fosse fedele alle cose al suo compito. Ecco, ma perché le navi dell'ONG, dal punto di vista tecnico, perché le navi dell'ONG improvvisamente hanno cominciato a operare in alto mare? Bravo, allora è questo che dobbiamo chiederci. Hanno cominciato ad operare in alto mare e sono aumentate, si sono spostate sempre più a sud, perché nell'aprile 2015 ci fu il più grande naufragio del Mediterraneo con 900 morti e prima ancora c'erano stati altri naufragi superiori, con vittime superiori. Quindi a quella, lei dice, è stata una necessità. 2013. Quindi il tema sono i morti, il tema è come fare finire questa strage questa in mare. Strage. Le ONG sono andate a coprire un vuoto che non dovrebbe esistere e quel vuoto non solo non dovrebbe essere coperto dalle ONG, ma neppure soltanto ed esclusivamente dalla Marina Militare Italiana, certo, dalla Guardia Costiera Italiana. Ed è il famoso è lo stesso problema che l'Europa non vuole vedere, insomma. Ecco, mi aspetto questo dalla politica italiana, che su questo siano uniti, che facciano forza. Ecco, però sindaco Nicolini, lei, uso le sue parole, ha detto che una gestione emergenziale continua favorisce le ruberie e il malaffare, cioè? Sì, ma bisogna stare molto attenti a distinguere i due. Sono parole sue, queste. Sì, sì, io ho detto questo, lo confermo e adesso lo spiego, ma è cosa diversa dalla tratta di esseri umani. La tratta di esseri umani è un business internazionale potentissimo, insieme a mafia e droga, sono radicatissimi non solo sul territorio, nei paesi africani dove operano, ma anche nella nostra Europa. Se lei va a guardare gli atti del processo del 3 ottobre 2013, vedrà che molte persone, molti componenti dell'organizzazione criminale che hanno organizzato quel viaggio sono stati arrestati in Sicilia, in Italia, e che da quel processo si sono sviluppate poi altre indagini. Ecco, sì. E guardi, il bravissimo procuratore della DIA, Geri Ferrara, che ha istruito questo processo, ha chiesto alla Germania di cooperare, perché hanno individuato in Germania componenti dell'organizzazione criminale. E la Germania non collabora. Non collabora. Quindi io mi concentrerei, fossi in Di Maio e fossi, diciamo, tra coloro che hanno l'ardire di voler governare questo paese, a comprendere bene questi fenomeni e a individuare gli strumenti di lotta, quelli che servono, insomma, colpire le ONG solo perché tra loro ci sarà qualche mela marcia, qualcuno sì. che sbaglia, sì. non è... si pecca di insomma, si sbaglia la cura, ecco. Senta, lei ha vinto il premio UNESCO per la pace, un grande riconoscimento. Lampedusa è stata festeggiata? Sì, tantissimi mi hanno festeggiato. Certo, Lampedusa, i lampedusani si rendono perfettamente conto, come me, che il premio non è alla mia persona. Naturalmente, sì. È a Lampedusa per quello che ha fatto, che sta facendo, che ha fatto e sta facendo. Lei si candida sindaco con una sua lista, però senza tutto il PD che la sostiene. Perché? Beh, la spaccatura del PD a Lampedusa è una cosa atavica. Insomma, Lampedusa alla fine è un piccolo spaccato del paese, quindi nessuna meraviglia. Senta, ma quante persone a Lampedusa oggi sono pagate per soccorrere i migranti? Il soccorso in mare viene fatto dagli uomini della Guardia Costiera, sì. a cui va il mio saluto, certo. e la mia riconoscenza. Certo. A bordo delle motovedette operano anche dei volontari, medici e paramedici del CISOM, il corpo di soccorso dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. E poi a terra è quasi ormai tutto istituzionalizzato, sì. quindi la salute, i controlli sulla banchina e poi tutto quello che riguarda la tutela della salute sindaco, dei migranti viene fatta dall'ASP, quindi dalla regione, e sì. i volontari a Lampedusa, mentre prima, fino al 2011, il volontariato, la comunità, gli attivisti avevano un ruolo fortissimo nel sostituire lo Stato. Adesso oggi lo Stato è presente. Un'ultimissima cosa, sindaco, e la ringrazio, ma l'economia di Lampedusa oggi su cosa si basa soprattutto? Pesca e turismo. E la cosa meravigliosa di quest'isola è proprio questo, è un'isola che pur essendo la periferia d'Europa, pur essendo stata per 20 anni da sola a sopportare il peso, perché se dobbiamo usare il termine peso per parlare peso, certo. degli sbarchi, certo. quello insomma il peso l'ha avuto Lampedusa, poi se ce lo distribuiamo tutti non è più un peso. Grazie. Non si è spopolata. Non si è spopolata, questo è un gran successo. Che cresce nel turismo. Grazie sindaco Nicolini. 800240024 numero verde, 349-238-6666 l'SMS. Adesso cambiamo pagina, perché oggi il Presidente della Repubblica riceverà, Mattarella riceverà un lavoro scientifico molto approfondito fatto dalle Accademie Nazionali delle Scienze in vista del G7 di Taormina. Alberto Quadrio Curzio, economista, presidente dell'economia dell'INCEI. Ecco, questi documenti brevi, sintetici che avete preparato riguardano tre settori. Il primo è quello di promuovere la resilienza del patrimonio culturale ai disastri naturali. Come? I Lincei hanno già ottenuto la firma della cosiddetta Carta di Roma sulla protezione dei beni culturali a fronte di eventi catastrofali. La proposta che noi oggi facciamo riguarda la necessità di prevenzione, certamente prevenzione non sufficiente ad evitare gli eventi catastrofali, ma capace di mitigarli fortemente, con investimenti sia in capitale umano, cioè consapevolezza, sia in capitale fisico, ecco. infrastrutturale e di sicurezza. Ecco, cosa vi aspettate che decidano i grandi a G7 sulla base delle vostre indicazioni in concreto? Noi speriamo che si prenda contezza della gravità del problema, che va accentuandosi anche per il cambiamento climatico, e si dirotti un certo ammontare di risorse verso la prevenzione e verso la formazione delle popolazioni ai rischi che possono essere su di loro incombenti. Ecco, avete un modello di riferimento? Il modello di riferimento è certamente quello di tutti gli interventi antisismici posti in essere in vari paesi sviluppati, che dovrebbero essere replicati in tutti i paesi soggetti a rischi idrogeologici o sismatici. Ce n'è uno a cui ispirarsi particolarmente? È difficile dare un modello di riferimento, ma Giappone, non so. Il Giappone è certamente un esempio importante. Senta, il secondo tema riguarda le malattie neurodegenerative, Parkinson, SLA, Alzheimer, eccetera. Per esempio, dato il prolungamento della vita, si prevede che i malati di Alzheimer passeranno dagli attuali 40 milioni ai 135 milioni del 2050. Quindi, in conseguenza, esploderanno i costi dell'assistenza. Cosa si propone? Non è noto un farmaco specifico ed efficace che consenta di rallentare, bloccare o invertire queste malattie. Tuttavia bisogna prendere atto che le stesse andranno aumentando, come lei diceva prima, per i numeri e per l'allungamento della vita, e quindi si pone un problema di natura socio-assistenziale per far sì che chi è colpito da queste malattie possa essere adeguatamente sostenuto. Ecco, dal punto di vista politico, cosa può prevenire questo tsunami neurologico? Bisogna mettere in evidenza la necessità di risorse crescenti, ma bisogna altresì mettere in evidenza la necessità di cure attraverso ricerche che siano coordinate su scala internazionale. Ecco. La sfida è veramente una sfida internazionale mondiale, che richiede grossi investimenti. Ecco, professor Quadrio Curzio, la terza raccomandazione riguarda i paradigmi di crescita economica che derivano dalla rivoluzione scientifica e tecnologica, che offre grandi opportunità ma anche grandi rischi dal punto di vista dell'accentuazione dei divari tra il nord e il sud del mondo e all'interno dei paesi. Con quali strumenti si può evitare questo? Questo è un problema davvero importante, perché i divari nord-sud non si stanno riducendo e l'accelerazione dell'innovazione tende ad aumentarli. Bisogna dunque trovare anche qui delle forme di rilocazione degli investimenti e soprattutto degli investimenti in capitale umano, che diventeranno sempre più necessari per frenare questo aumento dei divari e in qualche modo seguire la traccia fissata da Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Ecco, in definitiva l'inclusione o l'esclusione dei benefici dello sviluppo dipende da questo, no? Dipende molto dalla formazione, dall'investimento in capitale umano, e poi io credo anche che una migliore utilizzazione delle risorse spostate dagli eccessi di finanziarizzazione verso l'economia reale e le infrastrutture tangibili e intangibili sia una necessità sempre più urgente. Ecco, professor Quadrio Curzio, le accademie rappresentate in questo gruppo di studio sono 250. Si può dire che sia lo strumento di dialogo più significativo tra i paesi nel raccordare analisi scientifiche e ipotesi di scelte politiche istituzionali? Io credo che sia estremamente importante, perché il dialogo tra queste accademie è in corso da molti anni, i network internazionali di accademie stanno diventando sempre più importanti sia in Europa che nel resto del mondo, e il dialogo avviene su basi oggettive, e cioè partendo dalla ricerca scientifica e non su a priorismi di natura ideologica o di natura politica. Ecco, un'ultimissima cosa, in concreto i vostri referenti a cui darete questi studi sono i due ministri dei beni culturali Franceschini e delle finanze Padoan. Cosa vi aspettate? Noi siamo certi che questi due ministri accoglieranno i nostri suggerimenti, nella misura in cui poi questi potranno essere tradotti in pratica, vedranno essi stessi e il governo, ma li accoglieranno perché seguono regolarmente con attenzione l'andamento dell'attività dell'Accademia dei Lincei anche nei rapporti internazionali. 800240024, numero verde 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora, Pietrangelo, che sentiamo oggi? Eccola. Is this a long beginning or a long goodbye? Something about you makes me wanna cry. Hits me so deep, makes it hard to sleep. that I'm to blame. Siren singing when I speak your name. Restavano appiccicati ai vetri le impronte delle carezze, dei baci scagliati come sassi, tutti in cerca di buchi sull'acqua, capaci di generare poi onde che facessero degli addii, degli arrivederci. Insomma, prendevano posto i futuristi in metropolitana oggi, declamavano Milton nel paradiso perduto, però in metrica sincopata. Ha chiamato Tamara Dell'Empisca, ha voluto questo brano per Filippo Tommaso Marinetti con una dedica. Non è molto più bello della Nike di Samotracia questo nostro amore? Kremlin Oro. Sì, ma qui proprio traduttori, cose letterati. Kremlinologi per capire. Oh, è semplicissimo. Ha chiamato Tamara Dell'Empisca. Abbiamo capito questo brano per Marinetti. Abbiamo capito quello che hai detto, non quello che vuol dire. Dai, e soprattutto a chi è diretto. Appunto. E che ne so se ne starà destinatario. In metropolitana. Sì, beh, tutte lì, tutte in metropolitana le incontra. Ascoltate questa voce meravigliosa. Vai. Abusò, giro partigio di me, abusò, giro partigio di me, abusò, giro partigio di me, abusò, chi mi perdoni. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe. Vabbè, questo è un classico della musica carioca, certo, reinterpretato alla francese da Pauline Crozet o Cross, non lo so, adesso non mi ricordo più, però Cross. Lei è bravissima, bravissima, bellissima. E Macron Le Pen, oggi, stasera, il dibattito su France D e sul primo canale d'oro dei francesi, e beh, tutti si chiedono chi vincerà. Certo. Sono due caratteri molto molto interessanti. La Le Pen nei dibattiti televisivi è andata bene, ma meno bene di quanto ci si aspettasse. Adesso vediamo in un faccia a faccia a due cosa succede e soprattutto come interpreterà Macron tutto questo. Contano molto le regole, nei faccia a faccia a due contano molto le regole. Io voglio il parere di un esperto. I sorteggi di chi parla prima, chi parla ultimo, perché sono elementi che determinano, no? I due characters come li vedi? No, i due caratteri non lo so come li vedo, perché mi sembrano tutto sommato abbastanza, paradossalmente abbastanza nuovi per questo tipo di confronto. Macron nuovissimo, Le Pen l'aveva già fatto una volta, però è cambiata e maturata moltissimo. Il fatto che copi i discorsi di Fillon, cioè dei gollisti, sì, per attrarre i gollisti, è certamente un segno di una sua, come dire, conversione a una francesità, a un grandeur, però che ha delle radici diverse dalle sue, insomma. Quindi è interessante. Senti, ma partita chiusa o aperta secondo te? Ma io penso che una partita di un faccia a faccia così è sempre aperta. Tu avevi un sondaggio anche tu, me l'ha segnalato una nostra ascoltatrice, Diletta Maioli. Mi gira il tweet di Brigitte, la signora Macron. E lei stessa, cioè quello che legge adesso è il tweet della signora Brigitte Macron. Gli ascoltatori lo possono trovare sul profilo di non Brigitte Macron. Non è un fake, no, no, no, è lei, è lei, è lei, è lei, anche perché è ben rilanciato. Allora, il suo sondaggio è questo: Emmanuel Macron, lei lo dà al 21%, la moglie, sì, la moglie lo dà al 21%, Marine Le Pen al 58%, la moglie di Macron, il profilo, sì, il profilo. E voti bianchi 10%, astensioni all'11%. Vabbè, insomma, cioè scaramantico, diciamo, è un sondaggio scaramantico. Scaramantico. Ma è vero che somiglia a Brigitte a quello di Walt Disney? Guarda, io non me la ricordo Brigitte. L'innamorata di Paperon de Paperoni. Sì, trovi. Paperon de Paperoni me lo ricordo, Brigitte francamente. Identica. No. Eravamo concentrati su Paperon de Paperoni noi. Poi io mi ricordo ci interessavano Brigitte Bardot. Ci interessavano le sue vasche. Comunque il sondaggio vero dà un grande vantaggio a Macron, eh? 59, questo è quello 40. Della moglie, quello della moglie, quello di Brigitte. Vabbè, io capito, okay. che di fronte a Ranocchio dice: non insistere, non ti bacio, se non diventi un principe ci rimango male io, se diventi un principe ti accorgi che non sono una principessa ci rimani male ma tu. Ma quello è già principe e poi Brigitte è forte. È meglio, dai, che resti tutto com'è, dice, insomma, non roviniamo questa favola. Non tocca... dai Brigitte, dai, okay. Vai con tuo salamino. Contrordine, confratelli del cattiverio, il bullo ormai balla. Oh, Giovanni, è il quarto giorno della resurrezione di Matteo Renzi. Sì. Avete notato stamattina? Gli usignoli hanno schiuso una seconda covata di uova. Certo. Le acque dei fiumi tornano a brillare, il traffico è regolare e le campane fanno ding dong da. Oh, adesso sì che è primavera! È primavera, svegliatevi bambini. Passerotti, rondini, cinci allegre tengono alla larga. Chi tengono alla larga? Oh, i gufi! Che bel gufo impagliato! Impagliato, bada come parli! Ma è vivo! E parla! Non avendo altro modo di votare che le primarie, sul finire di un dolcissimo aprile gli italiani hanno votato e nel frattempo il numero dei partecipanti, dopo le opportune verifiche da una commissione presieduta da Magamagò, dal divino Telma e dal supercilioso Merlino, è aumentato vie più oltre il super giù e il su e giù è stato stabilizzato. Bianco e nero, falso e vero, questo il mondo fa girare. Altro che 1.848.000 votanti ai gazebo contro i 2.814.000 in 3 anni e mezzo di renzismo trattenuto, messo ai margini dal governo di Paolo Gentiloni Silveri. Oh, dopo questo quarto giorno, caro Giovanni, e non avete idea di quanti risulteranno domani, ci sono 3.900.000 voti in più. 1 milione soltanto vengono dai gazebo collocati vicino alla RAI, ce ne sono 1 milione in più. E sono tutti arrivati lì perché questi gazebo virtuali hanno confermato il successo conclamato che va ben oltre il 79,99% di consensi, a dispetto di quello che dice lo stesso Romano Prodi, che dice che ne aveva avuti il triplo, perché ormai... No, il triplo, aveva avuto 4 milioni e mezzo, il doppio. Lui ha detto triplo. No, ho scritto male, il doppio, esattamente il doppio. Allora, l'ha scritto male, l'ha detto bene. Sì, certo, perfetto. Questo è sicuro. L'ha scritto male, l'ha detto bene, però è certo che venerdì prossimo, io ho fatto un calcolo, ci saranno 8 milioni di voti. E comunque sabato, domenica, al perché poi... Che cosa arriverà al telefono di Matteo? Arriverà quello che già ebbe alle prime primarie di lotte di vittoria, perché si congratulò con lui Dudu e col Canuzzo in viva voce fecero sentire il loro evviva Francesca Pascale col fidanzato Silvio e gli altri convenuti del cerchio magico di Arcore, speculare in letizia al giglio magico della giubilante Fiorenza tornata. E domani Roma rinascerà più bella e più superba che pria. Più bella, bravo, e più forte, grazie, che pria, contrordine dunque. E però io vorrei proporre agli ascoltatori, e noi riceveremo le risposte, e immagino anche voi vogliate darmi risposta, con una sola domanda e 3 risposte. Per dirla con Alessandro Robecchi, la domanda qual è? A quale successo di Renzi siete legati? A. All'Italia. B. Salvataggio Unità. C. Salvataggio Monte dei Paschi di Siena. Io alle elezioni europee. Tu, Mario? Ma nessuno dei tre. E nessuno dei tre. I 3 successi meravigliosi all'Italia, Unità, Monte dei Paschi di Siena. Questi i grandi successi di Renzi. Europa, nazione, rivoluzione, dicevamo noi ai bei tempi. Perché questo è... Vai, Mario, ancora una bolla. Sì. Carole King, It's Too Late. Giovanni, solo per dirti una cosa, cambio la notizia in realtà che avevo scelto, perché sono usciti i dati Volkswagen del primo trimestre. Utile netto 3,4 miliardi di euro, ricavi più 10%. Però crescita del 44%. Tu ti ricordi, cioè, quando il Dieselgate non ha inciso? No, il Dieselgate è sparito. Aiutato. È sparito, questa è la cosa incredibile. Però anche quello che dovevi dire, che non hai detto sul fatto che Trump... Lo posso dire? Lo dirò. Allora, al volo. Giustizia, si va in tribunale sul dossier che era stato fabbricato su Trump, le spie russe, eccetera. Non è vero. Il fabbricatore del dossier, cioè l'ex spia di Sua Maestà la Regina, dice... I fatti non sono verificati, il dossier non deve essere pubblicato. Punto. Io dico sempre, il tempo è galantuomo. Speriamo. 800 24 00 24, numero verde 349 238 66, l'SMS. Pubblicità. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta X24. 4 maggio 1949, collina di Superga. Il Grande Torino, guidato da Valentino Mazzola, fa ritorno a casa in aereo dopo un'amichevole giocata a Lisbona. Le condizioni meteo sono terribili: nebbia, pioggia e vento. Il cielo era terra, l'umbria. Era il preannuncio di un grosso temporale. Ci riparammo sotto i portici della piazza e sentimmo in lontananza, dopo pochi minuti, un rombo, un boato. L'aereo sul quale viaggiano i Granata si schianta a pochi passi dalla Basilica di Superga. Atterro, vado a cambiarmi, mi levo la tuta, sto vestendo, mi viene il mio segretario e mi dice: guardi che ha telefonato dall'Osservatorio del Pino che un aereo ha battuto contro Superga. L'aereo, ce n'era uno solo in volo, quindi non poteva essere che quello del Torino. Passò mezz'ora, tre quarti d'ora e si sparse subito improvviso la voce. Un incidente aereo. È morto il Grande Torino. Muore così il Grande Torino, la squadra simbolo della rinascita italiana dopo la guerra. 31 i morti tra giocatori, tecnici, dirigenti, giornalisti e membri dell'equipaggio. Nessun superstite. A Vittorio Pozzo, commissario tecnico della Nazionale, il compito di riconoscere i corpi dei suoi giocatori. È una tragedia che coinvolge l'intero paese. Una folla commossa di 700.000 persone partecipa ai funerali del Grande Torino. A 68 anni di distanza, dunque, una puntata dedicata alla tragedia di Superga, dopo il giornale radio, naturalmente. Mario, c'è ancora una bolla? Sì, no, c'è giusto un titolino, cioè il ministro dello sviluppo economico Calenda, che ha detto che entro 15 giorni vanno fatte l'apertura delle manifestazioni di interesse per l'eventuale cessione di Alitalia. Solo che prima, poi leggevo Bloomberg poco fa e insomma diceva che stavolta per Alitalia sarà molto dura trovare un compratore. Ma senti, ma secondo te perché tre commissari? Tre. Beh, la compagnia è grande. Le cose da fare ce n'è tante. Il management vecchio esce, ovviamente. Entra una fase completamente nuova. C'è chi deve pensare a condurre il business attuale, perché continua. Certo. Perché continuano a volare, no? È per certo quello che si fa il prestito ponte. Quindi diciamo assicurare. Quindi la gestione. Dice che è normale che ci siano tre commissari. Ma abbastanza. L'Italia è veramente un'azienda complicata. Guarda, io in questi giorni ci sto lavorando parecchio su bilanci, cose eccetera. Devo dire che io posso usare il termine tecnico. Io un casino così non l'avevo mai visto. Mai visto? No. Ma qual è la cosa più sorprendente? I costi dei servizi. 2 miliardi. 2 miliardi di costi dei servizi su un bilancio di 3 rotti. Sai quant'è? Sai quant'è in realtà il costo dei dipendenti? Tutti dicono i dipendenti, la cosa dipendenti più importante. Sono quello che costa 600 meno. Milioni, di che cosa stiamo parlando? Cioè è totalmente sballata la comunicazione anche. Sì, è la costruzione del business industriale. Ma infatti credo che adesso i dipendenti si sono pentiti del referendum, perché sì, non li riguardava. No, ma perché loro dovevano, i sindacati hanno sbagliato. E adesso noi con il professor Bernabei, Roberto Bernabei, commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina. Le frontiere della ricerca. JAMA, febbraio 2017. 2 anni di terapia immunologica sono sufficienti per la rinite allergica? Due articoli di JAMA si occupano di un problema che è tipico di questa stagione, la rinite allergica. La rinite allergica affligge circa il 15% della popolazione e sta esplodendo in questi giorni. In molti casi non è controllata dai puff di cortisonici intranasali o dagli antistaminici per bocca. La terapia che oggi viene fatta, ed è la terapia corrente, è un'immunoterapia sia sotto cute che sotto lingua. E ha dato buoni risultati, però ci vogliono 3 anni di trattamento. 3 anni sono lunghi. Gli autori hanno voluto vedere in questo articolo se si risolve il problema della rinite allergica con un trattamento più breve. Hanno preso allora 106 pazienti con allergia al polline, divisi in 3 gruppi. Uno trattato con l'immunoterapia sottocutanea, uno con l'immunoterapia sottolinguale, il terzo con il placebo. Dopo un anno di terapia andava un pochino meglio la terapia sottocutanea rispetto a quella sottolinguale e andavano meglio del placebo. Dopo 2 anni andavano sempre meglio le immunoterapie rispetto al placebo, ma interrompere a 2 anni di terapia faceva sì che al terzo anno non c'era differenza tra chi aveva fatto l'immunoterapia e chi è che aveva fatto il placebo. Quindi a dire indirettamente che bisogna continuare il trattamento purtroppo per tutti e 3 anni. Un consiglio quindi da seguire a tutti i nostri pazienti con la rinite allergica. Amici, tocca farsi una terapia triennale. E per chiudere, cosa ha scelto per noi Gloria Guerrera? Oggi una canzone per chi vive l'esplosione innescata da un solo sguardo, vero, preciso e intenso. Mina, mi sei scoppiato dentro il cuore. Era solamente ieri sera e io parlavo con gli amici, scherzavamo fra di noi. E tu ho capito ancora, non so come può finire quello che succederà. Ma tu